Non è solo affetti stabili con Radio 24, ma proprio un legame di sangue. Buona trasmissione, buona giornata. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa. Spiace interrompere Deborah, però d'altra parte bisogna spiegare, altrimenti non si capisce. Sì. Sembra che così abbiamo avuto il piacere di far riascoltare Futura di Lucio Dalla, perché no, insomma, sì, è sempre, scusami, c'è però, sempre un motivo. Sei alzato? Ti sei alzato? Lo faccio istantaneamente. E non potevo allontanarmi dal microfono, sennò Peter Bescapè qui dall'altra parte mi sgrida. Tu non hai idea con che ferocia lo so. Mi può sgridare Peter Bescapè. Guarda, no, lo so bene, perché stamattina, peraltro, già da remoto avevo il collegamento casalingo che faceva qualche capriccio e quindi già si era un po' indispettito. Allora, senti, facciamo finta di niente, rimettiamoci nei nostri ranghi professionali e spieghiamo agli ascoltatori il perché di questa scelta musicale. Peraltro, se hanno letto i giornali, io credo che lo immagineranno già, no? Che cosa ne pensi? Ma guarda, è il titolo principale del Sole 24 Ore di oggi, il BTP legato al prodotto interno lordo, e quindi BTP che punta sulla ripresa e che si chiamerà Futura, come la canzone di Lucio Dalla. E quindi da questo ovviamente l'associazione Delinquere, costituita proprio oggi da Marco Lombardo e Danilo Di Trani, che dall'altra parte che si sono tagliati i capelli tutti e due, mi risulta. Ti devo Danilo smentire, no? Purtroppo Danilo continua nella sua multicrinitudine. Non so, forse non riesce a trovare un appuntamento perché ha bisogno di un pomeriggio intero lì per mettere ordine, quindi evidentemente nessun barbiere. Sì, esatto. Allora, no, parliamo un attimo di questo BTP Futura, Deborah, perché ci stiamo un po' smarrendo. Il Tesoro praticamente vuole fare questa alleanza con i risparmiatori italiani. Noi l'avevamo già capito negli ultimi anni con i vari BTP Italia, l'ultimo dei quali con questa finalità esplicita dedicata a raccogliere risorse per fronteggiare l'emergenza economica che deriva dalla pandemia. Però quest'ultima emissione del BTP Italia aveva delle caratteristiche molto simili alle emissioni precedenti, e cioè diverse giornate dedicate alla sottoscrizione del pubblico indistinto, di noi piccoli risparmiatori, e poi una giornata dedicata agli investitori istituzionali. E peraltro l'ultima emissione è stata quella che ha segnato il miglior record di sempre, cioè il migliore numero di sottoscrittori di sempre. Questa nuova emissione invece, che ci sarà tra il 6 e il 10 luglio, sarà totalmente, esclusivamente dedicata ai piccoli risparmiatori, e sarà appunto un'emissione con delle caratteristiche abbastanza particolari che peraltro ancora non conosciamo del tutto, perché i dettagli saranno resi noti appunto fra qualche giorno. Sì, dovrebbe cosa ci racconta essere stamattina il Sole? Sì. Ma dovrebbe essere un'emissione che si prospetta interessante appunto per il pubblico retail, per i piccoli risparmiatori come me, come te, perché si parla di scadenze comprese tra 8 e 10 anni, non ci sarà un'indicizzazione, quindi non come BTP Italia indicizzato all'inflazione, ma invece un meccanismo che viene annunciato a cedole crescenti, quindi via via mi immagino che si mantiene, ecco come dice la signora, via via che si mantiene il titolo in portafoglio, la cedola, cioè quello che viene corrisposto a ogni scadenza, diventa maggiore. E poi ci sarà anche un premio finale, così è stato annunciato, che sarà calcolato ancora più alto degli ultimi, sul tasso di crescita del prodotto interno lordo. Quindi noi, e credo che non andrà al di sotto dell'1% rispetto alla quota complessivamente detenuta, perché come spiega questa mattina proprio sul Sole 24 Ore Davide Iacovoni, che guida la direzione generale appunto del debito pubblico del Ministero dell'economia, dice: dopo aver fatto lo 0,8 per mille, mi pare, nell'ultima emissione, non potevamo chiaramente scendere al di sotto. Quindi se si vuole invogliare il risparmiatore a investire in titoli italiani, chiaramente bisogna riconoscergli qualcosa, visto anche lo sforzo che fa di farlo in questo momento in cui magari un po' si stanno facendo dei sacrifici perché il lavoro è quello che è, insomma tutto quello che sappiamo che è successo in questo periodo, per cui vanno sicuramente premiati i risparmiatori che sceglieranno di sottoscrivere questa nuova operazione, che chiaramente sarà anche al centro di nostre trasmissioni speciali, Mauro, prossimamente. Ma, guarda, ça va sans dire, come direbbero i francesi, perché ovviamente ce ne occuperemo sicuramente dal 19 giugno in avanti, quella è la data in cui verrà comunicata la durata precisa. Ottimo. Invece i rendimenti saranno fissati il 3 luglio. Non so se l'abbiamo già detto, ma lo ripeto volentieri, anche questa raccolta sarà destinata integralmente, sì, a finanziare le misure anticrisi. Questo mi sembra un dettaglio molto importante da sottolineare anche per questo BTP Futura. Peraltro, cara Deborah, Futura andava bene e i nostri due amici Danilo e Marco effettivamente hanno l'occhio lungo, perché va bene anche per l'argomento che affronteremo quest'oggi. Perché il futuro prossimo è anche abbastanza prossimo, un po' lontano per tante persone, il futuro pensionistico. E allora noi oggi parliamo di questo tema, parliamo di previdenza integrativa, per tutta una serie di notizie interessanti. In primo perché la cronaca ci impone di fare un po' un check-up al nostro fondo pensione, perché chiaramente un po' andando al seguito dei mercati finanziari, i rendimenti di molti prodotti di previdenza complementare hanno fatto un po' i capricci per qualche mese. Chiaramente sono andati un pochino sull'ottovolante, seguendo, come dicevo, la direttrice dei mercati finanziari. Adesso sono comunque in ripresa. Per chi ha fatto un investimento da molto tempo, in realtà i rendimenti sono nettamente migliori del TFR tenuto in azienda, ma il punto vero è, caro Mauro, che proprio in queste ore vengono presentate le linee guida del prossimo mese dell'educazione finanziaria, ottobre 2020, e credo che la previdenza complementare sarà una delle grandi protagoniste di questa nuova edizione di questo mese. Guarda, già l'evento inaugurale sarà incentrato su quello, e poi dal 26 al 31 ottobre, e sto leggendo dal sito quellocheconta.gov.it, che è un sito che i nostri ascoltatori conoscono benissimo perché ogni anno a ottobre noi seguiamo con attenzione le iniziative di educazione finanziaria del portale nazionale quellocheconta.gov.it. Dicevo, dal 26 al 31 ottobre, settimana della educazione previdenziale, prima edizione, proprio per aumentare la cultura previdenziale dei cittadini. Ne sappiamo pochino, cara Deborah, io per primo, e quindi sarà utile dialogarne con il presidente della COVIP, la Commissione di Garanzia di Vigilanza, la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Mario Padula, che in anteprima ci illustrerà un po' le tendenze, le linee guida di questa ottobre 2020 dedicato appunto ai fondi pensione. Quindi vedi come guardiamo al futuro, guardiamo a luglio per il BTP, guardiamo a ottobre per l'educazione finanziaria, guardiamo ancora più in là per la previdenza complementare, fondi pensione di categoria e individuali. Insomma, più futuristi di così davvero neanche Marinetti, esatto, mi viene da dire. Pratica. Esattamente, ci manca solo di fare un quadro ad hoc e poi abbiamo completato tutte le nostre competenze. Direi però, caro Mauro, visto che il tempo corre, di andare subito avanti con il nostro giornale radio del risparmio. Andiamo. Ci dicono spesso di lavarci le mani, ma poi ci ascoltiamo Meazzero Shani. Sempre grazie, allora, a Bobo Messini. Sì. Vero, inciso il nostro grandissimo fan. Passaggio. Sì, ma dobbiamo anche cambiarla sta canzone, visto che ci ha consegnato del materiale fresco, direi di considerarlo. Che dici? Adesso, guarda, sai che faccio? Che oggi, sì, vengo in ufficio, vengo a prendere il CD, sì, e poi quasi quasi mi fermo a condurre con te il Welfare and HR Summit in versione digital event. A, sì, te prego la traduzione del tema. No, faccio io, guarda, perché ti vorrei lasciare la prossima notizia perché non ci ho capito niente. Ma no. E esatto, si parla di IMU e di proroghe possibili, ma va per bene, tutti, ma bene, non per la quota statale. Mi sono fermata lì al titolo e quindi io mi così diletto nella spiegazione della prima notizia, che in realtà è una comunicazione di servizio, ma c'è ancora tempo per iscriversi al Welfare and HR Summit, che ci sarà appunto oggi presso la sede del Sole 24 Ore, ma fisicamente saremo solo io, Mauro e Maria Carla De Cesari, perché tutti gli ospiti saranno rigorosamente collegati in remoto. Ma parleremo di un tema molto importante, parleremo dello stato di salute, che in questo momento chiaramente è un pochino in difficoltà, del mercato del lavoro. il coronavirus ha picchiato duro sulle nostre aziende, chiaramente anche il rapporto tra domanda e offerta ne ha risentito. Allora cercheremo di capire come si stanno riorganizzando le aziende, come stanno gestendo il loro personale in questo momento, visto che molte hanno consentito il lavoro in smart working, e soprattutto come stanno organizzandosi per la ripartenza. Avremo interlocutori di primo piano, di primissimo piano, e quindi iniziamo alle 15 e suggeriamo a tutti coloro che sono ancora interessati, che non lo hanno ancora fatto, di iscriversi. Questa è la pagina, devo dire anche https://eventi.eccetera, Mauro, si dice così? Secondo me basta che gli diciamo di cercare su eventi.ilsole24ore.com e poi da lì raggiungono Welfare, il titolo dell'incontro di oggi, digitale, assolutamente digitale, è Welfare e HR Summit, quindi la scrittura sul sito diventa welfare-hr-summit, ma qui diventa davvero una sciarada, e quindi passerei invece alla seconda notizia, che non so perché ti ha così... Che è un'altra sciarada, sì, esatto. Ma no, Deborah. Così, allora, dimmi tutto. Allora, dobbiamo parlare di IMU e lo facciamo questa settimana, abbiate pazienza, lo facciamo senz'altro, perché il 16 di giugno c'è la scadenza. Il nostro amico, amico proprio di Due di Denari, perché lo ascoltiamo spesso, lo interpelliamo spesso, massimo esperto, tra le altre cose, anche di IMU, Luigi Lovecchio, oggi sul Sole 24 Ore segnala una risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha dato indicazioni su questa scadenza del 16 giugno e ha detto che, vabbè, volendo si potrebbe con la delibera della Giunta Comunale differire l'acconto IMU, ma attenzione, perché la parte statale dell'IMU, quella che grava sugli edifici di categoria D, che poi sarebbero le fabbriche, gli alberghi, i teatri, insomma quelli di per produzioni, ecco, quella lì non si può toccare perché è statale, quindi lo Stato non ha disposto alcunché, dovete rispettare questa proroga. Allora, io rinnovo, l'articolo di Luigi Lovecchio è molto, molto ben documentato sul punto e lo trovate nelle pagine Norme e Tributi. Io rinnovo solo una cosa, controlliamo sempre sul sito del comune di riferimento per sapere se è stata decisa una proroga o in alternativa anche la possibilità di pagare oltre il 16 giugno senza applicazione delle sanzioni. Qualche comune può averlo deciso. Sul Sole 24 Ore di ieri abbiamo segnalato che sono pochi i grandi comuni ad aver deciso questo tipo di modifiche, però non possiamo escluderlo, quindi andiamo prima a verificare prima di pagare, poi sarebbe peccato, insomma, non sfruttare una opportunità che ci viene concessa dal comune. Vedi che era facile, Deborah? Non ti volevi impegnare. Basta che non interrogarmi, perché devo ripassare ancora una volta. Mi sono scritta gli appunti. Bene. Allora, io invece ti spiego che lo sappiamo, questa mattina l'Istat ha rilasciato un'altra indagine piuttosto dettagliata sul tracollo dei consumi che in Italia si è registrato in questi mesi. Lo sappiamo, e per la verità le organizzazioni di settore vedono anche nero per i prossimi mesi. In realtà c'è qualche associazione che vede qualche piccolo segnale positivo, e lo fa per esempio Findomestic, che è una grande società che eroga prestiti e quindi società di credito al consumo, che racconta che dopo il crollo di marzo e una piccola ripresa in aprile, a maggio le intenzioni d'acquisto degli italiani sarebbero cresciute di circa il 32,5% rispetto al mese precedente, riavvicinandosi addirittura ai livelli pre-Covid. Tuttavia, secondo questo osservatorio che Findomestic elabora mensilmente, un italiano su quattro a fine maggio si è dichiarato colpito dalla crisi per reddito o per occupazione. Il 22% di questo campione sarebbe comunque, dopo tre settimane di riapertura e quindi di rallentamento del lockdown, il 22% è tornato a spendere come prima, ma 7 consumatori su 10 ammettono di spendere meno rispetto alla fase ante coronavirus. Il 30% di questi, pur avendo la possibilità e la voglia di spendere, in realtà aspetta che il contesto migliori. E aspetta pure il parmigiano, caro Mauro, perché qua questa è una notizia che io non avrei mai voluto leggere. Insomma, è una delle vittime, come potremmo dire, celebri della chiusura dei ristoranti e della chiusura dei bar di questi tre mesi. Eh sì, perché qui contro il crollo dei prezzi il consorzio dei produttori del parmigiano reggiano si prepara con alcune contromisure, tra cui il ritiro di una parte delle forme già presenti per non far crollare appunto i prezzi di mercato. Poi anche una imposizione di un tetto più stringente alla produzione 2020 e 2021, e poi ci sarà anche un robusto piano di marketing. Pazzesco. Cara Deborah, vedremo un pochino. È tempo di ascoltare il nostro dillo a due di denari e poi andiamo sicuramente a parlare di previdenza complementare. Vi ricordo i numeri di telefono se volete comunicare con noi: 800 24 00 24 è il numero verde, 349 238 6666. Tra pochissimo si parla di fondi pensione. Dillo a due di denari. Dillo a due di denari. Buongiorno. Venerdì mattina scorso mi sono recato per rinnovare una polizza pegno, era il quinto rinnovo. Mi sono presentato all'addetta e ho chiesto di pagare con carta di credito il corrispettivo del rinnovo. L'addetta mi ha detto con arroganza che non poteva accettare altro che il contante, perché la banca era sprovvista di POS per accettare la carta. Io credo che questo sia inaccettabile, perché se l'obbligo esiste per tutti, credo che debba esistere anche per le banche. Il futuro è un'ipotesi, forse il prossimo alibi che vuoi. Il futuro è una scusa per ripensarci poi. Enrico Ruggeri, previdenza complementare, che saluto con grande affetto, con grande senso di mancanza da Radio 24, e io però mi ascolto sempre le canzoni. Senti, solamente un commento rispetto a questa storia del pagamento e del rinnovo della polizza su beni dati impegno, perché noi abbiamo fatto una trasmissione su questo argomento, onestamente non abbiamo toccato questo aspetto, quindi vorrei dire all'ascoltatore che indagherò sul motivo per cui la banca presso la quale appunto cerca di avere questo servizio non consente di pagare la polizza su questi beni attraverso una moneta elettronica. Chiusa parentesi. Molto volentieri, sarà un piacere dare qualche informazione in più anche su questo. Oggi invece ci concentriamo sulla previdenza complementare sui fondi pensione, perché saranno, lo abbiamo già annunciato, i protagonisti dell'ottobre 2020 del risparmio. Un ottobre 2020 un po' diverso, ovviamente, nell'era del Covid, speriamo tutti del post-Covid. È ai nostri microfoni Mario Padula, professor Mario Padula, presidente della COVIP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Benvenuto a Due di Denari, presidente. E buongiorno a voi, a chi ci ascolta, e grazie dell'invito. Allora, presidente, oggi sono state già presentate, in realtà sono reperibili sul sito quelloche conta.gov.it, le linee guida del mese dell'educazione finanziaria, del prossimo ottobre dell'educazione finanziaria, che comincerà proprio, si aprirà nel segno dell'educazione previdenziale, perché evidentemente siamo forse ancora più debolucci che sull'educazione finanziaria in generale. Questa è un po' l'impressione che potrebbe avere più di un osservatore. Sì, i temi previdenziali sono temi complessi, anche forse più complessi dei temi assicurativi e finanziari, che pure a questi sono connessi. Va anche ricordato che nel nostro paese il sistema previdenziale è profondamente cambiato negli ultimi 25-30 anni, con cambiamenti che, come tutti sappiamo, sono stati resi necessari all'invecchiamento della popolazione, che riduce la sostenibilità delle promesse previdenziali e dei sistemi pensionistici a ripartizione, sistemi pensionistici come il nostro, in cui chi oggi lavora paga le pensioni di chi oggi è in pensione. E sono cambiamenti che hanno, da un lato, interessato l'assicurazione generale obbligatoria, la cosiddetta AGO, e soprattutto innalzando l'età di accesso alle prestazioni e introducendo il metodo di calcolo contributivo per il calcolo delle stesse prestazioni. Ma hanno anche interessato questi cambiamenti l'architettura del sistema nel suo complesso, perché al pilastro di base, appunto l'AGO, si sono andati nel tempo affiancando un secondo pilastro di natura contrattuale e collettiva e un terzo pilastro di natura individuale. Questi due ultimi pilastri, il secondo e il terzo pilastro, costituiscono la cosiddetta previdenza complementare. È chiaro che di fronte a questi cambiamenti, che sono stati cambiamenti epocali, la domanda di conoscenza è forte, ed è una domanda di conoscenza che non solo investe le questioni appunto legate alle decisioni di risparmio, ma io, permettetemi di dire, credo che riguardi un tema più ampio di cittadinanza economica, perché una maggiore consapevolezza del modo di funzionamento, dei meccanismi di funzionamento del sistema pensionistico permette a ciascuno di noi di valutare meglio quelli che noi economisti chiamiamo i trade-off, cioè i pro e contro, per esempio, dei diversi interventi sul sistema pensionistico, cioè chi vince e chi perde. E certo, anche professor sì. Padula, delle nostre scelte. E poi, certo, ci mette in condizione di scegliere meglio, di scegliere, diciamo, tra tutti i modi alternativi possibili, qual è il migliore per risparmiare in vista della pensione, in vista dell'uscita dal mercato del lavoro, in un contesto in cui, appunto, diversamente da quanto accadeva per la generazione che ci ha preceduto, la quota di rischio di longevità che è assicurata dal primo pilastro si è ridotta e va riducendosi, quindi si rende sempre più necessario nel tempo poi provvedere a appunto integrare il risparmio di primo pilastro con risparmio nel secondo e nel terzo pilastro, quindi nei cosiddetti pilastri complementari. Allora, Presidente, noi abbiamo preparato una prima brevissima scheda che spiega un po', riassume sia quello che ci ha detto lei, sia qualche numero anche che riguarda COVIP, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Ascoltiamo la scheda e rientriamo poi per dare la linea ai mercati finanziari. Con le ultime riforme e il passaggio a un metodo di calcolo interamente contributivo, gli assegni mensili del sistema pensionistico pubblico andranno ad alleggerirsi. La costruzione di una pensione integrativa permette di compensare questa riduzione con l'obiettivo di mantenere il medesimo tenore di vita anche dopo aver smesso di lavorare. La COVIP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, è l'autorità che ha il compito di vigilare su questo sistema, tenendo sotto controllo, da un lato, il funzionamento degli strumenti di risparmio che vanno a formare il cosiddetto secondo pilastro previdenziale dei contribuenti che vi aderiscono, e dall'altro, il patrimonio e gli investimenti delle casse professionali che operano in questo campo. Istituita nel 1993 e operativa dal 1996, la COVIP affianca all'attività di vigilanza quella di informazione e divulgazione. Sul suo sito www.covip.it, la sezione intitolata Area divulgativa contiene guide, video e audio dedicati all'educazione previdenziale. Secondo le stime COVIP, alla fine di marzo 2020 il numero degli individui iscritti a forme di previdenza complementare si attestava a 8.325.000, per un totale di oltre 9 milioni di posizioni aperte. La crescita registrata nei primi tre mesi di quest'anno, pari a 68.000 unità, un più 0,7%, è stata limitata rispetto ai trimestri precedenti. E allora, queste alcune informazioni di base. Torniamo subito dopo le informazioni sui mercati finanziari a parlare con Mario Padula, presidente della COVIP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, della Previdenza Complementare. Vi ricordo i nostri numeri per dialogare con noi: 800240024 è il numero verde, 349-238-6666 se volete scriverci messaggi SMS o WhatsApp e quindi anche vocali. Ma tutto ciò premesso, cara Deborah, per favore, le borse. Deborah, sei in ritardo. E come vai a presa? Deborah, le borse. E mai faccio, ma vai a presa? Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di Denari. Che abbiamo il piacere questa mattina di avere con noi il presidente della COVIP, il professor Padula. La COVIP è l'autorità di vigilanza sui fondi pensione. Allora, noi questa mattina abbiamo deciso di parlarne, lo ricordiamo un po' perché questo sarà il grande tema al centro dei vari eventi che verranno organizzati il prossimo mese di ottobre nell'ambito del mese dell'educazione finanziaria, e poi perché chiaramente anche l'andamento un po' altalenante dei mercati finanziari si è fatto sentire sui rendimenti dei fondi pensione. Allora, professor Padula, per chi avendo anche purtroppo e suo malgrado del tempo a disposizione in queste settimane, perché è rimasto a casa lavorando magari in smart working, ha deciso di farsi il check-up della propria situazione in tema di previdenza integrativa, avrà notato che effettivamente i rendimenti dei prodotti di investimento appunto in questo campo sono stati negativi, hanno inevitabilmente seguito anche l'andamento dei mercati finanziari internazionali che sono stati molto pesanti, hanno comunque tutti recuperato anche ampiamente, perché pensate, lo dico così a beneficio degli appassionati, il Nasdaq, l'indice della tecnologia americano, è ritornato sui livelli di febbraio, per cui ha completamente cancellato la crisi, e quindi è anche abbastanza probabile pensare che se nelle prossime settimane faremo un controllo dei rendimenti dei fondi pensione, anche questi avranno ricominciato appunto la risalita. Ma di sicuro questo tema è stato anche oggetto di riflessione. Professor Padula, che dire a chi si è un po' così intimorito e un po' spaventato rispetto a questa situazione dei mesi passati? Allora, anzitutto due cose. La prima, i fondi pensione investono in portafogli che sono diversificati, quindi in quanto tali sono nelle migliori condizioni per affrontare shock avversi come quelli che si sono registrati appunto soprattutto nel mese di marzo. Come lei ha giustamente detto, già a partire dalla seconda terza settimana di marzo ha cominciato a registrarsi una inversione di tendenza, e sotto molti aspetti adesso siamo ritornati già appunto per alcuni indici nelle condizioni in cui eravamo a febbraio. Questa è la prima cosa che volevo dire, quindi è proprio la diversificazione che consente, che permette ai fondi pensione di affrontare meglio queste fasi avverse dei mercati. La seconda è che i rendimenti dei fondi pensione vanno guardati non solo sul breve periodo, ma piuttosto su periodi più lunghi, perché il risparmio pensionistico è un risparmio appunto finalizzato allo scopo previdenziale, è un risparmio appunto di lungo periodo, e quindi appunto i rendimenti vanno guardati nel lungo periodo. Ad esempio, anche nell'arco dei 10 anni, anche considerando questa fase estremamente negativa del primo trimestre 2020, i fondi pensione hanno reso il 3% mediamente all'anno, che è un rendimento del tutto ragguardevole. Quindi è importante certamente fare dei check-up, farli di frequente, però è importante anche ricordarsi che l'orizzonte proprio dei fondi pensione è il lungo periodo, quindi è a lungo periodo che bisogna guardare se si vuole valutare appunto il proprio investimento previdenziale. Professor Padula, ci stanno scrivendo in tanti, sia per intervenire in diretta, magari riusciamo poi a prendere qualche ascoltatore o ascoltatrice, sia anche con WhatsApp. Qualcuno ci chiede, c'è un ascoltatore che ci scrive da Vicenza e dice: io lavoro da solo 2 anni, è un ascoltatore molto giovane, ha 28 anni, ha aperto già il suo fondo di pensione integrativa 5 anni fa anche per il beneficio IRPEF quando era a carico, quindi con una strategia diciamo fiscale e previdenziale insieme. Dice, scrive questo ascoltatore, però non avendo grandi risparmi da parte né offrendo il mercato grandi rendimenti su altri strumenti, voi ritenete che sia più utile versare il più possibile nel fondo pensione? Insomma, è un ascoltatore particolarmente previdente, verrebbe da dire, nel vero senso della parola, professor Padula. Sì, allora diciamo subito una cosa, proprio per il modo in cui funzionano i fondi pensione in generale, la previdenza complementare, se si vuole cominciare bene, cominciare prima possibile, perché prima si comincia e minore sarà lo sforzo che si deve fare in termini di risparmio da versare anno per anno per ottenere un risultato previdenziale alla fine della vita contributiva. Per essere concreti, facciamo un esempio: una persona che risparmiasse 1.200 euro al mese nell'arco di 30 anni ad un tasso di interesse del 3% all'anno, simile a quello appunto che hanno registrato negli ultimi 10 anni in fondi pensione, avrebbe alla fine della vita contributiva un montante, si chiama così, circa 60.000 euro. Ora, se la stessa persona volesse avere 60.000 euro ma risparmiasse non in 30 anni ma in 20 anni, dovrebbe risparmiare non 1.200 euro all'anno ma quasi 2.000. E se volesse ottenere lo stesso risultato in 10 anni dovrebbe risparmiare quasi 4.500 euro all'anno. Quindi questo per dire che cosa? Che prima si comincia e meglio è, cioè minore è il sacrificio che si deve fare anno per anno in termini di consumo al quale si deve rinunciare per risparmiare per ottenere un certo risultato previdenziale. che tra l'altro però, Deborah, qui il problema è proprio quello dell'educazione previdenziale, perché spesso sono esatto. I giovani, non sorprendentemente, anche i soggetti così meno sensibili all'idea di attivare da subito un risparmio infatti, previdenziale. Io parlo anche infatti, per esperienza personale, naturalmente. Certo, infatti a livello istituzionale, professor Padula, forse questo aspetto va così ben segnalato ai nostri ascoltatori, si sta facendo molto anche per organizzare gli strumenti adatti per parlare a tutte le platee. No? So che da ora in avanti, per esempio, si renderanno disponibili degli strumenti di previdenza complementare che potranno essere sottoscritti anche online. Quindi non ci sarà bisogno, per chi vorrà prendersi appunto tutto il tempo per fare una scelta consapevole, necessariamente di andare in banca oppure da un'assicurazione, ma si potranno trovare anche proprio delle opportunità, sempre parlando con gli stessi interlocutori, ma magari cercando delle informazioni con il canale online ed eventualmente facendo anche direttamente la sottoscrizione con il canale online. So che questo è stato un grande tema anche al centro della vostra recente consultazione pubblica. Sì, lo è un tema importante che ha il suo rilievo non solo per i soggetti di mercato, cioè quelli che offrono prodotti di terzo pilastro, ma anche per la previdenza di natura collettiva e contrattuale, che su questo fronte deve ancora registrare dei progressi. È importante che il canale digitale venga in ogni modo potenziato, che sia possibile aderire online proprio per rendere la previdenza più vicina a chi ne ha più bisogno, cioè i giovani. Ciò detto, fatemi ricordare proprio che appunto il mese dell'educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa, il prossimo mese di ottobre, avrà al centro i giovani, quindi il tema dell'educazione previdenziale proprio nel rapporto con i più giovani. La giornata di apertura sarà proprio dedicata a questo tema, poi come avete ricordato ci sarà anche una settimana alla fine di ottobre dedicata all'educazione previdenziale. E la ragione è molto semplice: da un lato i giovani sono quelli più esclusi, questo lo vediamo dai nostri dati, ma lo registrano anche le statistiche internazionali. Dall'altro sono anche quelli che ne hanno più bisogno, perché sono quelli che sono destinati a fronteggiare delle promesse appunto previdenziali che saranno via via calanti nel futuro. Quindi sui giovani bisogna lavorare, e per le ragioni che dicevo prima è meglio cominciare subito. Prima si comincia è meglio, e in questo c'è un lodevole sforzo che il comitato, che è autorevolmente diretto dalla collega Anna Lusardi, sta facendo. Segnalo peraltro, caro Mauro, che proprio poco fa Davide Colombo, il collega del Sole 24 Ore, ha pubblicato sul sito del Sole 24 Ore una lunga intervista ad Anna Maria Lusardi, che anticipa i temi della terza edizione del Mese del Risparmio e parla proprio di conoscenza e previdenza per uscire più forti da questa crisi, e quindi mi piaceva insomma sottolinearlo e segnalarlo ai nostri ascoltatori, che avranno il piacere di leggerla. Allora, continuano le vostre richieste di informazioni e segnalazioni. Io, solo per questi 30 secondi che ci separano dalla viabilità, segnalo un ascoltatore che dice: sì, è una pensione integrativa, ma in generale c'è in Italia una avversione al rischio. Di questo tema so che il professor Padula, il presidente Covip, vorrebbe parlare, perché questa avversione al rischio forse è mal riposta, ma lo scopriamo con calma dopo il traffico. Due di denari. Allora, stiamo dialogando di educazione previdenziale, educazione finanziaria, certo, che è il tema, come sempre, dell'ottobre di ogni anno da diversi anni a questa parte. Ottobre 2020 ugualmente sarà dedicato all'educazione finanziaria, ma in particolare all'educazione previdenziale, e ci sta illustrando le necessità e anche quello che si comincia a mettere in programma il presidente Covip, la commissione di vigilanza sui fondi pensione, Mario Padula, che è nostro ospite questa mattina. Professor Padula, questo ascoltatore che diceva siamo tutti molto avversi al rischio, preferiamo trattenere a volte anche la liquidità, abbiamo visto una crescita di liquidità proprio per così un aumento delle paure, comprensibile aumento delle paure in questa fase di coronavirus, però forse sulle pensioni questo è un ragionamento un pochino miope, no? Beh, permettetemi di fare una battuta sulla circostanza secondo la quale gli italiani sarebbero avversi al rischio. Beh, gli italiani spendono moltissimo per giochi, quindi forse non sono avversi al rischio. Più in generale, per quello che riguarda la previdenza complementare, ma in generale la previdenza, naturalmente esistono delle incertezze. Pensate al caso, per esempio, di un insegnante entrato che ha cominciato a lavorare a metà degli anni Ottanta. Ecco, quell'insegnante immaginava di poter andare in pensione secondo un sistema di calcolo dei benefici pensionistici e delle pensioni del tutto diverso da quello che poi con il quale poi sarebbe andato, perché chi ha cominciato a lavorare in quegli anni pensava di poter nel pubblico andare con un sistema completamente retributivo, e invece poi dopo, per effetto della riforma Amato, Dini e poi Prodi, dal sistema retributivo si è passato a un sistema misto che ha una componente retributiva. Quindi l'incertezza c'è naturalmente, però noi dobbiamo abituarci tutti a gestirla, riguarda tutti i pilastri. Dopodiché è chiaro che lasciare il denaro sul conto corrente, lì però che succede? Non c'è incertezza, ma c'è la certezza di un rendimento negativo. Quindi è una buona scelta proiettata nel lungo periodo? Forse no, perché nel lungo periodo poi investire in un'attività che ha un rendimento negativo implica semplicemente di perdere sicuramente dei soldi. Quindi non è la scelta giusta, non è la scelta ottimale da fare. Sicuramente. L'incertezza può essere appunto sopportata, ma qual è la cosa importante? La cosa importante è che lo si faccia appunto con consapevolezza e investendo in portafogli che siano diversificati, perché l'incertezza, e questo è un elemento base dell'educazione finanziaria, previdenziale e anche assicurativa, si fronteggia con la diversificazione. C'è una ascoltatrice. Prego Deborah, dimmi. Sì. No, vai con l'ascoltatrice. No, perché Rosangela pone una domanda a cui non so adesso se vogliamo proprio rispondere, ma la faccio porre proprio da lei. Rosangela ci chiede, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, mio figlio ha già attualmente il fondo pensione energia. Sì. L'anno scorso l'azienda gli ha riconosciuto un benefit che lui ha girato al fondo come welfare. Sì. La mia domanda è questa: nel 7.30 al punto E27, caspita, posso inserire questa cifra come contributi non dedotti? Allora, Rosangela, per questa risposta le facciamo, se lascia la sua email, le facciamo rispondere da un fiscalista. Ma mi sembra interessante interpellare il professor Padula sul discorso della convenienza fiscale, perché attualmente c'è una convenienza fiscale, lo ricordava anche il nostro giovane ascoltatore nel messaggio che abbiamo letto prima, però forse, lo dico sommessamente, si potrebbe fare qualcosa di più. Allora, una convenienza fiscale c'è sia sul fronte dei contributi, che sono appunto dedotti fino a un massimo di poco più di 5.000 euro, l'equivalente dei vecchi 10 milioni di lire, sia sul fronte delle prestazioni che vengono tassate vengono tassate al massimo al 15% con una marginale che decresce in funzione del numero di anni in cui si è appunto di permanenza nel fondo pensione. Quindi c'è un vantaggio su due fronti, quello della contribuzione e quello della prestazione. Ciò detto, si può fare di più? Beh, dai nostri dati quello che vediamo è che in realtà è una piccola minoranza quella degli iscritti ai fondi pensione il cui contributo tocca appunto il cosiddetto limite di deducibilità. Mediamente si contribuisce attorno ai 2.500, 2.600, 2.800 euro. Però forse qualcosa sulla fiscalità può essere fatto mantenendo saldi i principi generali che non devono mai essere alterati. Per esempio, anche per venire incontro alle necessità di un mercato del lavoro che è profondamente cambiato e non è quello tipico al quale si era abituati fino a qualche decennio fa, che è quello appunto fatto di carriere continue, che tendono appunto sì a premiare una contribuzione che sia continua e quindi cui corrispondono anche delle posizioni previdenziali più forti e più solide. Il mercato del lavoro è cambiato, forse si può fare uno sforzo sulla fiscalità articolandola per soddisfare meglio le esigenze di mercato del lavoro in cui le carriere discontinue purtroppo sono un'eccezione, sono una regola anziché l'eccezione. Questo è un tema importante, professor Padula, perché il tema della eterogeneità, se vogliamo, del mercato del lavoro determina anche una gamma di strumenti di previdenza complementare molto ampia. Non è che una persona che lavora e vuole fare la sottoscrizione di un fondo pensione può sceglierne uno qualunque. Generalmente, come dire, è bene che faccia una scelta pertinente e adeguata ai propri bisogni e anche al proprio tipo di lavoro, e questo è il motivo per cui ci sono per esempio i fondi pensione chiusi, che sono quelli di categoria, ci sono i fondi aperti, ci sono i piani individuali appunto previdenziali, e sono come dire, aspetti che vanno conosciuti perché hanno anche dei costi differenziati a seconda appunto del piano che si sceglie, per cui come dire, anche per questi aspetti bisogna fare una scelta non superficiale ma estremamente ragionata e consapevole. Questo è il motivo per cui c'è bisogno di una grande campagna educativa su questo tema, nonostante di previdenza complementare ormai parliamo da moltissimi anni. Segnalo solamente l'inchiesta che ha fatto Plus 24 del Sole 24 Ore sabato scorso, dalla quale si evince che il 53% degli italiani non risparmia abbastanza per la vecchiaia, forse perché tante dinamiche, non ultima quella demografica alla quale andiamo tutti incontro, professor Padula, sono note. Sì, mi faccio dire una cosa sui costi, perché ha toccato un tema molto importante, sì, sul quale anche alla Covid abbiamo lavorato e stiamo lavorando. Ecco, mentre i rendimenti sono incerti, una certa dose, come ricordavo prima, di incertezza deve essere affrontata pur in un ambito di portafogli che devono essere come sono diversificati, i costi sono viceversa certi. Quindi l'elemento di costo è un elemento fondamentale nella scelta tra le diverse forme previdenziali, nell'offerta appunto che ciascuno di noi può trovarsi di fronte. Infatti alla Covip abbiamo costruito e messo a disposizione sul nostro sito un calcolatore che serve appunto a comparare le diverse forme previdenziali proprio sotto il profilo dei costi. Noi calcoliamo un ISC, che è un indice sintetico dei costi, e facciamo appunto attraverso questo comparatore dei confronti anche di tipo visivo, appunto per facilitare la scelta. Quindi un tema che noi abbiamo presente, è un tema molto importante che incide appunto sulla scelta che ciascuno di noi deve fare. Naturalmente i prodotti poi sono anche molto diversi tra di loro. Un prodotto, gli schemi collettivi, appunto i fondi chiusi, i fondi contrattuali tipicamente prevedono un contributo appunto legato al contratto, è diversa la storia per i prodotti di natura individuale. Quindi sì, c'è un tema anche qui di educazione, di consapevolezza, e anche poi c'è un ruolo di informazione che le autorità possono contribuire, anzi devono contribuire a svolgere. Tra l'altro, Deborah, superfluo dire che stiamo twittando l'indirizzo esatto, cioè stiamo mettendo su Twitter il simulatore, il comparatore di costi. Esatto, sì, ma è molto facile trovarlo, confermo, perché se si va sul sito covip.it, da lì proprio compare nella primissima pagina, ben visibile a sinistra, il comparatore dei costi. Tra l'altro è un tema che stavano sollevando anche molti ascoltatori, ma come faccio a capire, come faccio a scegliere, vorrei capire quanto mi costa l'adesione a un fondo, ecco, si può fare con questo confronto. Siamo all'ultimo minuto, Deborah, quale curiosità possiamo ulteriormente soddisfare con la presenza del professor Padula? Certo, professor Padula, solo per chi questa mattina si fosse sentito stimolato dal nostro dialogo con lei e volesse andare a caccia delle informazioni di base sul fondo pensione, io direi, a parte guardare chiaramente i siti istituzionali, venirci a seguire chiaramente anche con il mese dell'educazione finanziaria, ma per non aspettare ottobre, io direi che per esempio un primo dialogo si può fare anche con il proprio datore di lavoro, perché magari quella può essere insospettabilmente la prima fonte che può aiutarci anche ad avere un po' di chiarezza sull'argomento, o no? Che ne dice? Sì, certamente il luogo di lavoro è un luogo importante per acquisire informazione sui fondi in pensione, in particolare appunto quelli di natura contrattuale e negoziale, quindi certamente il datore di lavoro è un riferimento. Poi come dicevo prima, bisognerà crescere appunto nella dimensione digitale, perché anche con appunto un consolidamento che pure ci sono, e un miglioramento dei siti e delle funzioni che possono essere attivate online, si riesce ad avvicinare un potenziale iscritto al fondo pensione. Quindi si deve lavorare su due livelli: un livello di contatto diretto per il tramite appunto del datore di lavoro, ma anche un contatto più indiretto che si deve attivare sulle piattaforme digitali. Grazie. Ne riparleremo sicuramente. Bene. E non solo ad ottobre.